E allora aggiungiamo al sommario una diretta che riguarda la situazione del compagno arrestato per i fatti, l'ultimo arrestato per i fatti di Roma del 15. Siamo in collegamento con il suo avvocato. Pronto? Buonasera. Buonasera. Allora, ci può dire quali sono le ultime evoluzioni della cosa, perché l'arrestato adesso si trova a Chieti? Pronto? Sì, pronto? Sì, la sentiamo. Dicevo, attualmente sta al carcere di Chieti, sì. Abbiamo fatto verso mezzogiorno l'una l'udienza di convalida con l'interrogatorio di garanzia, in cui abbiamo spiegato, anzi il ragazzo ha spiegato e ha chiarito i fatti che gli vengono addebitati, dichiarando la propria estraneità ai fatti che gli sono addebitati, quindi in particolare all'assalto al furgone dei carabinieri che poi è stato incendiato. Quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di chiarire le intercettazioni telefoniche, perché è l'unica cosa che ci sono, perché non ci sono fotografie di riscontro, quindi non ci sta nessuna fotografia che ritrae Vecchiolla in atteggiamenti, diciamo così, belligeranti. Nonostante questo, il GIP ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere, e adesso a questo punto non resta che rivolgersi al Tribunale di Roma, che adesso è competente per svolgere il riesame. Tra altre cose, Vecchiolla attualmente in carcere fa lo sciopero della fame, cioè rifiuta il cibo, perché si ritiene innocente e quindi ingiustamente ristretto in custodia cautelare. Questi sono i fatti, più che altro, avvocato, quindi, in somma riassunzione. Avvocato, quindi sì. Lei ci può confermare che l'accusa non ha presentato alcuna prova concreta del fatto che l'accusato fosse responsabile di quello che gli viene attribuito? Allora, l'accusa ha portato soltanto delle intercettazioni telefoniche, una soprattutto in particolare, che può essere letta in vari modi. Io come difensore la leggo in un modo diametralmente opposto rispetto a quello della procura, perché per me dalle intercettazioni risulta proprio l'estraneità del Vecchiolla ai fatti. Fra le altre cose, quello che è imputato al Vecchiolla non è tanto il fatto di aver assaltato materialmente e personalmente l'autoblind, ma quanto di aver concorso moralmente a questa azione delittuosa, che ovviamente io come avvocato non posso che deprecare. Quindi questi sono i fatti, noi cerchiamo di aver chiarito. Il quadro indiziario, in verità, ho dichiarato già altre fonti di informazioni, abbastanza misero, perché sono soltanto queste due intercettazioni telefoniche e un verbale di sequestro in cui non è stato sequestrato nulla di rilevante o di preoccupante o di particolarmente grave. Questi sono i fatti, in buona sostanza. Va bene, la ringraziamo. Speriamo nel riesame. La ringraziamo molto. E il tribunale riesame quando si pronuncerà? L'istanza va fatta nei 10 giorni da oggi, l'istanza di riesame, quindi generalmente una quindicina di giorni. Ho capito, nel frattempo dovrà rimanere in carcere? Certamente sì, purtroppo sì per lui. Ho capito, grazie ancora, buonasera. Salute allora e ai loro ascoltatori, buona serata. Grazie.